con Alessandro Tiberio di Valmin per parlare della distribuzione del film L'Uvon Salome di Cordula Cablitz Post al cinema da giovedì 26 settembre 2019. Alessandro, ben trovato. Sì, salve, ciao Federico, ben trovato anche tu. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, volentieri. L'Uvon Salome è una biografia, un biopic, direi anche classico e molto, insomma, ben strutturato, su un personaggio che personalmente, insomma, è sempre stato uno dei personaggi del cuore. L'Uvon Salome è stata un po' una sorta di picco della Mirandola femminile degli inizi del Novecento. Lei era una poetessa, una scrittrice, una filosofa. Nell'ultimo periodo della sua vita è stata anche una delle allieve predilette di Freud, quindi anche psicoanalista. Era una donna che desiderava raggiungere una perfezione intellettuale, spirituale, in un mondo dove appunto gli intellettuali erano esclusivamente uomini e chiaramente tutto il mondo della cultura era appannaggio dei soli maschi, tanto che infatti i primi romanzi e saggi che lei pubblicò erano scritti sotto pseudonimo maschile. È una storia particolarissima perché questa donna appunto per promuovere, per sancire insomma l'emancipazione femminile, e nella prima parte della sua vita rifiutava l'idea di fare coppia, insomma, con degli uomini, di mettere su famiglia, di seguire appunto un percorso di donna tradizionale, e quindi finì per convivere con alcuni dei più grandi personaggi del Novecento. In particolare il film si concentra molto sulla fase della vita in cui lei convisse con Paul Re e Friedrich Nietzsche, che conobbe a Roma, appunto in Italia, creando questa sorta di cameratismo, di complicità, di affinità elettiva, ma appunto rifiutando qualsiasi coinvolgimento sentimentale e ancora di più sessuale. Lei rifiutava proprio di fare sesso con gli uomini. Il che a questi uomini stava molto stretto. Stava estremamente stretto perché tutti questi giganti, perché poi lei frequentò veramente la lista dei nomi eccellenti di inizio Novecento con cui lei intrattenne dei rapporti, insomma, amicali e di scambio, è quasi infinita. C'erano anche Wagner, Strindberg, personaggi fondamentali. Poi sarà il poeta Rainer Maria Rilke, con cui, non voglio spoilerare, però insomma è storia nota, fu uno dei suoi primi amanti, quando lui in realtà era un ragazzo giovanissimo, poco più che ventenne, e lei era verso i 40, quindi diciamo che alla fine, verso i 40 anni, si concesse di scoprire che cos'era la sessualità e che cos'era, no? E divenne un po' una sorta anche di femme fatale involontaria per quel momento. Anche in questo suo cameratismo, in questo suo stringere queste amicizie quasi virili con questi uomini, in realtà faceva perdere la testa a tutti questi uomini. Nietzsche si dice che addirittura fosse impazzito a causa dell'amore che nutriva per lei, della stima e l'ammirazione che nutriva per lei, e a causa del suo rifiuto. Quindi ecco, è questa figura di ribelle, anticonvenzionale, che andava contro i tabù della società e che appunto per un lungo periodo fu anche di ripesa per questo suo atteggiamento, cioè fece scandalo. In particolare i familiari di Nietzsche, ad esempio, erano assolutamente preoccupatissimi di come questa convivenza potesse ledere alla fama del filosofo. Appunto poi nell'ultima parte della sua vita, quando scopre, diciamo, si concede all'amore, al sesso, diventa una seduttrice quasi vorace, e quindi ebbe tantissime relazioni, e proprio questo percorso colpì molto Freud, con cui lei ebbe un rapporto strettissimo, proprio era una delle sue allieve predilette, con cui appunto esplorarono insieme molte teorie sia sulla sessualità maschile che femminile, sia in particolare sul narcisismo positivo. Detto così sembra un film impegnatissimo, ma ci siamo così, ci ha convinto sia noi come Valmin sia il co-distributore Wanted, perché appunto invece il film è estremamente gradevole, estremamente ritmato, ben fatto, con riprende proprio, riesce a trasmettere molto bene l'ancorità che era propria di questa donna straordinaria, che in realtà nel film troviamo da anziana, perché appunto durante gli anni 40, gli anni 30, cioè durante l'ascesa del nazismo, lei che praticava la psicanalisi e che aveva delle origini ebraiche, si nascose, distrusse praticamente tutti i suoi manoscritti, tutte le sue opere, e scelse sostanzialmente di quasi di passare all'oblio. E quindi la troviamo appunto che in realtà confessa le sue memorie a quello che poi sarà il curatore, diciamo, della legacy di tutto il suo archivio, appunto Ernst Pfeiffer, a cui confida appunto le proprie memorie, e quindi crea questa sorprendente autobiografia. Io credo che sia un personaggio veramente molto stimolante, perché tocca moltissimi punti, secondo me, di interesse anche sull'attualità, cioè mostra appunto la lotta per l'accettazione della parità di diritti, la parità di la libertà di comportamento tra uomo e donna, in una maniera veramente sorprendente, pensiamo un secolo fa, e capendo quanto è assolutamente attuale. Quindi è proprio, io credo sia un bellissimo archetipo di emancipatrice, di eroina del Me Too in qualche modo. Non era in senso stretto una femminista, nel senso che non militò mai ideologicamente in un alveo che si può ricondurre al femminismo, però assolutamente era una donna che voleva completamente superare le barriere e le differenze di trattamento e di capacità anche di imporsi nella società, in particolare nell'elite intellettuale, insomma, dell'epoca, rispetto ai maschi. Quindi credo sia veramente un personaggio fondamentale da scoprire oggi. Alessandro, in quante sale? Usciamo in una ventina di sale come prima settimana, il periodo è bello complicato, però questo giovedì 26 usciamo a Roma, Milano, Bologna, stiamo a Napoli, stiamo un po' in provincia della Toscana, nel Triveneto, stiamo in realtà ancora costruendo, perché ormai i tempi della distribuzione stanno diventando sempre più concitati, cioè si arriva il martedì a capire dove si esce il giovedì, e poi abbiamo già molte sale prenotate per la settimana successiva, ovvero il 3 di ottobre, dove allargheremo anche a Torino e Firenze, che sono un po' due città che crediamo siano molto recettive nei confronti del film. Lou von Salome di Cordula Kablitz Post, al cinema da giovedì 26 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio di Valmin, che lo distribuisce. Un abbraccio e a presto. Insieme a Wanted. Insieme a Wanted, giusto. Grazie mille, buona giornata a tutti.